Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Un omaggio al cuore di Bologna cantando di un luogo che racconta la città. Al Bar Maurizio è l'ultimo singolo di Nicola Gallerani. Io ho sempre suonato, cantato e scritto per puro divertimento e per proprio necessità di esprimermi. Ed è questa poi la molla che mi ha portato a fare musica, insomma, in generale, e a scrivere questo brano e questo EP in particolare, insomma, che tratta di Bologna, non solo di Bologna, ma di tanti argomenti. Parlare di Bologna in musica non è facile perché i predecessori e i contemporanei sono tantissimi. Tu hai deciso di andare a raccontare un piccolissimo frammento che però dice tanto di questa città. Ma sì, guarda, è vero, le canzoni che sono state scritte su Bologna o sul territorio in cui abito in generale vengono i brividi, mi viene in mente in primis Piazza Grande, per cui secondo me certi paragoni non è difficile davvero farli. Detto questo, io faccio il mio, io ho descritto questo piccolo locale nel centro storico della città e che ha mantenuto intatto quel sapore di una Bologna forse che si è un po' andata perdendo negli anni, e attraverso la descrizione di questo piccolo posto ho descritto un pochino la mia città, affrontando temi forse un po' più sconosciuti e più, andando a toccare aneddoti e particolarità un pochino nascosti della mia città, insomma. E mi sono divertito attraverso appunto la descrizione del Bar Maurizio a parlare di Bologna. Uno a Bologna mi chiede se la salta, è un ristorante tipico, una suora imbalsamata. Io gli rispondo che vado al Bar Maurizio in via Guerrazzi 22 per prendermi un caffè. L'attore legionario, il grande cantautore, l'americano con la barba, il bullo e il professore, la moglie dell'idraulico e la fan meridionale, una TV senza lo schermo e l'urlo da schiacciare. Uno a Bologna mi chiede se il Nettuno al pollice perverso non dovrebbe stare su. Io lo so perché ci sono state, il Bar Maurizio esiste davvero. Sembra uscito da un film di Pupi Avati e sembrano usciti da un film i suoi avventori, ma non è un racconto di fantasia. Potrebbe sembrarlo, ma non è un racconto di fantasia. No, è assolutamente una cronaca. E c'è il grande cantautore, effettivamente c'è e frequenta il bar, l'attore effettivamente c'è e frequenta il bar, abbiamo il professore universitario. E però all'interno di questo posto, che è piccolino, veramente una bolla di 10 metri quadri, si respira quella convivialità, quell'accoglienza che è un po' tipica di Bologna e dell'Emilia Romagna in generale, ecco, per cui è questo un pochino il nesso che mi ha spinto a mettere sullo stesso piano il Bar Maurizio con la mia città. Ce ne sono a Bologna ancora di locali e di osterie che mantengono intatto questo sapore, sempre meno, ma ce ne sono. Singolo ma anche un EP, hai detto. Sì, esatto, io sono uscito a fine giugno con un EP con 5 brani, il titolo dell'EP è La mia estate a Bologna, ci sono varie canzoni dalle più divertenti e scanzonate a quelle un pochino più profonde. Io non farò il nome di chi è il grande cantautore che frequenta il Bar Maurizio, so chi è, non posso dire chi è, ma l'ha sentito il pezzo, ti ha detto qualcosa? Allora, ti dico la verità, io il grande cantautore non l'ho incontrato recentemente, penso sia in giro, forse per motivi insomma professionali, però carinamente ha fatto un tweet in cui si cita la mia canzone e quindi a me già questo basta, devo dire, è stato molto molto carino, insomma, devo dire la verità, ecco. Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Nicola Gallerani. Ancora un saluto da Marta Cagnola.